Amici sportivi, quasi tutto pronto, vedete, per l'ingresso in campo. Erba un po' alta, stile Real Madrid di Mourinho. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Padre fiorentino, faccio carabiniere 20 anni fa, maresciallo di caserma della Fiorentina, sì. Mi porta allo stadio a vedere Juve Fiorentina con la pennellata di Del Piero, poi mi dice ci vediamo a ritorno, andiamo a ritorno a Firenze, 4-1 per la Juve, in curva Fiesole, io stavo zitto perché ero in mezzo alla curva Fiesole, sul ritorno verso Genova dove facevo il servizio, mentre cantavo in macchina naturalmente prendendolo in giro, mi abbandona in Piazzola. Sì, eh. Beh, mi sembra clamoroso, democratico. Secondo me hanno fatto pure bene. Vale la durisata, li vede tutti seri. Roberto, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo parlare del fatto che avete detto due volte del rigore di Bredi a Catanzaro, no? E, giustamente, però tra le righe non c'è detto che però c'era. Diceva di non ricordarci cosa era successo a Cagliari così clamoroso. Volevo puntualizzare che la memoria collettiva sportiva è strana, perché tutti si ricordano del non gol di Turone dell'anno prima, ma nell'82 a Cagliari, alla Fiorentina, a Graziani fu annullato un gol regolarissimo, perché Vox Populi, dico quello che dicono a Firenze, era l'anno dei mondiali e Beazzotti sembra che non volesse nessuno spareggio per un'eventuale assegnazione dello scudetto. Il rigore poi famoso di Vreli, sì, è un mani di Palanca ampiamente fuori dall'area. Però ripeto, la memoria collettiva sportiva è strana, perché tutti gli anni quando c'è Juve-Roma viene rammentato il gol. Ma quindi il gol, cioè il rigore per la Juventus non c'era, lei mi dice? Ripeto, Vox Populi, anche se è la Vox Populi di Juventina di 10 minuti fa, la dovremmo richiamare, sì, richiamiamo l'ascoltatore di il gol di grazia, anche se il rigore c'era, stavo tanto magari io posso anche magari ricordare male, ma il gol annullato a Graziani per un fuorigioco inesistente chiedo ancora che venga insomma giustizia, via. Però in quel caso la Juventus sarebbe non sarebbe il mandante sarebbe Beazzotti, giusto? Diciamo il sistema. Meraviglioso. Io sono qui per ristabilire la verità dei fatti. Meraviglioso, volevo tornare agli ascoltatori di ieri aspettando Fiorentina e Juventus, siamo andati alle radici di questa disputa tra fiorentini e juventini. Abbiamo passato una notte su YouTube. La memoria collettiva sportiva è strana. Allora, c'è Pardo, ancora no? Sì? Arriva, va bene, così coinvolgiamo anche lui, ma coinvolgiamo soprattutto voi. 800 24 00 24, Franco Piantarino, il nostro autore, Fabio Cantadoni in regia, Daniele Buonamici in redazione, Giovanni Capuano è qui con me, abbiamo riguardato tutti i filmati. E allora, torniamo all'82, poi se volete andiamo anche al 90, finale di Coppa UEFA, 82. Non è stato facile, non è stato facilissimo, perché è stato il rigore di Bredi effettivamente era sulla linea di porta. Palanca, para. No, non Palanca, Celestini o para sulla linea di porta. Con le regole attuali sarebbe stato espulsione, proprio para. Nessuno del Catanzaro, che peraltro era salvo, aveva fatto una stagione meravigliosa, nessuno protesta. Bredi mette il pallone sul dischetto, tra l'altro Bredi già licenziato dalla Juventus, che l'anno dopo prese Platini. Liam Bredi mette il pallone sul dischetto, lo trasforma. Quindi era sulla linea di porta, fuori dalla rigore, non era Palanca, ma questo è il meno. Poi Cagliari-Fiorentina. No, su Cagliari-Fiorentina ci siamo divisi. Secondo me non era fallo, fallo di confusione di Bertoni. Esatto. Allora arriva un traversone dalla destra, Bertoni salta sul portiere del Cagliari, Corti, che sbaglia l'uscita, palla alle sue spalle, arriva Graziani e segna. E c'è l'arbitro. Tanto per cominciare, non si parla di fuorigioco. Fuorigioco assolutamente. Si parla di Mattei, arbitro di Macerata. Di Macerata che fischia fallo di confusione. Dicono i dietrologi che Mattei, come Bergamo, quello dell'anno prima del gol de Turone, tutti arbitri che hanno fatto carriera da dirigenti dell'AIA, secondo me si poteva anche andare via dritti e fare questo bello spareggio. Però è assolutamente vero, non solo Beazzotti voleva che il blocco Juve arrivasse appagato, soddisfatto, contento per lo scudetto, e quindi probabilmente ha spinto anche che non solo non ci fosse lo spareggio, certo, ma che lo scudetto, ma che lo scudetto lo vincesse la Juve, perché vincesse così certamente la Juve, contenti, assolutamente, e col senno di poi fece, ha ragione, bene, Roberto, no? Da Varese. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Molto bene. Hai riguardato i filmati su YouTube di Catanzaro Juventus, Cagliari Fiorentina? No, non l'ho riguardati, ma è, insomma, una storia abbastanza nota. Le proteste della Viola per quel finale di stagione, no? Ma sì, però voglio dire, ieri abbiamo ospitato molti ascoltatori, c'era chi diceva: ma no, Juventus, il fallo era fuori area, era chiaramente un fallo di mano, ma fuori area, era sulla parata sulla linea di porta. Poi Cagliari Fiorentina, ci fu il gol annullato a Ciccio Graziani. Esatto. Dopo quello che secondo me era un fallo, carica sul portiere di Daniel Bertoni, su Corti, portiere del Cagliari. No, ma giusto per stabilire la memoria storica. No, non me ne può fare, la Moviola 33 anni. Ma è meraviglioso, ma sta scherzando. Una volta a Cesare gli abbiamo fatto fare la Moviola del gol di Turone. Ma... sì, veramente. Ma non ci sono le immagini. Esistono varie versioni della Moviola del gol di Turone, tu sai che è al centro di un giallo assoluto. È perché ci sarebbe anche una confessione di aver leggermente taroccato le immagini all'epoca, certo, il momento, e quindi probabilmente non era fuori gioco, o forse era fuori gioco. La certezza è che Bergamo ha fatto carriera, prendi, così Roberto Davarese è contento. Ma se la prendi così, come farà il nostro ascoltatore che sta arrivando? Io parlerei però del 90, perché lì invece del secondo 90 me c'è finale, c'è materia. Coppa UEFA, Juventus, Fiorentina, Fiorentina, Juventus, andata 3-1 a Torino per la signora, con un gol assolutamente irregolare. Gol di Galia, pareggio di Buse, poi Casiraghi e De Agostini. Sul gol di Casiraghi c'è una spinta su un difensore della Fiorentina. Palla ribattuta, c'è una girata, non mi ricordo di chi, di un giocatore della Juventus. C'è un fallo di mano di un giocatore della Fiorentina. C'è un fallo a di gioco mano. Gioco virtualmente fermo. E però c'è il fallo di mano, c'è il fallo di mano di un giocatore della Fiorentina, che l'arbitro, che si chiamava? Toriano Aladren. Non fischia, la palla finisce a Casiraghi che insacca il gol del 2-1 e poi segnerà De Agostini con un destro da fuori area. Tu ti ricordi poi come era stato ribattezzato, giusto Pier? Soriano Aladron, no, dai tifosi della Fiorentina. Certo. No, tutto questo per dire che ha fatto benissimo Messina, che ci manda Rizzoli, Faverani e Stefani, che sono i tre che hanno fatto la finale del Maracanã, sì, così questa sera è tranquillo. Rizzoli è una garanzia. Ci sono state le polemiche l'anno scorso a Juve-Torino, però non è che gli arbitri non sbagliano mai. Rizzoli, diciamo che ha una carriera e una credibilità che lo rende, che anche se sbagliasse domani mattina, è un po' come Collina. Non è che Collina, appunto, ecco, non sbagliasse mai. Collina sbagliava, è che a un certo punto era diventato un arbitro complice, secondo me, anche il suo aspetto, che lo rendeva particolarmente riconoscibile, e secondo me ha contribuito, ma gliel'ho detto anche di persona, al di là degli dubbia classe, ha contribuito al suo essere personaggio, e tutto questo gli ha dato uno stima, un carisma, una forza, che poi fanno sì che anche se arriva l'errore arbitrale, l'errore arbitrale lo accetti. Stesso discorso per Rizzoli è stato giustamente celebrato dopo la finale del Maracanã, è un arbitro di grandissima esperienza. Poi se andiamo a guardare nella carriera di Rizzoli, sicuramente degli errori li troviamo, però il segno complessivo è quello di un arbitro credibile, di un arbitro del quale ci si può fidare. Ma l'errore soprattutto dei grandi arbitri è parte della bellezza di questo gioco. Pietro da Vicenza, che arriverà subito dopo il traffico, vuole parlare del gol di Turone. A dopo. Fate le tue risate, li vedete tutti seri. Tutti convocati. Allora, io ho chiamato Pietro da Vicenza, ma mi segnalano che il primo della lista è Enrico, alla provincia di Trento, 800240024. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo intervenire sul gol di Turone. Grande, sì. Sì. Dica. C'è una dichiarazione di Sassi che dice che le fasi montate del gol sono state montate a favore della Roma. Sì. Ecco. Sì, che questa è una versione leggendaria secondo cui taroccarono la Moviola. Sì, sì, non sapremo mai la verità, come non sapremo mai la verità del gol di Ramidi domenica scorsa, perché come hanno spiegato i moviolisti di tutte le TV, quelle cose che avete visto, le elaborazioni, non sono in realtà la goal line technology, quindi in Italia non sapremo mai se quello era gol. Magari qualche dubbio lo conserviamo anche su Montari, così apriamo anche il file Montari. Ma conserviamo un sacco di dubbi di Turone, su Ustica, di sicuro su Turone non avremo mai risposte. Su caso Mattei, sulla tragedia di Vermicino, su un sacco di cose che conserviamo, su Ilaria Alpi. Abbiamo un sacco di misteri nella storia del calcio italiano, tra cui il gol di Turone, tra cui il finale di campionato 1982 pilotato da Enzo Berzot. No? O no? Mi fa impazzire. A te no, Pier, non ti piacciono queste cose? No, mi piace. Non ti diverti? Beh, insomma, adesso la moviola con 34 anni. Ma perché no? Sì, è vero. C'è chi ragione. Scrive, ecco perché sono viola, da lì in poi viola forever. Ma certo, ma chiaro, poi ognuno ha il suo... Sicuramente ci sono stati dei tifosi che sono diventati tali da una parte o dall'altra, perché quel campionato lì è finito in un modo o nell'altro. Insomma, non ci sono particolarmente dubbi. Quelle sono le strade imponderabili e tutte accettabili. Ma poi sai benissimo, una delle affermazioni più gettonate è quella secondo cui la Juventus non vince in Europa perché lì gli arbitri non l'aiutano. Allora, perché avrebbero dovuto aiutarla a vincere la Coppa UEFA nel 1990? Perché non c'era neanche Platini alla guida dell'UEFA? Pietro, Vicenza, buongiorno. Bello il calcio, peccato che ci sia anche la partita. Sì, peccato. È quella che rovina tutto, dobbiamo sopportare la partita per poi divertirci. Dica. Comunque, io sono un testimone oculare di Catanzaro Juve. Ero allo stadio quel giorno. Allora, voi avete visto solo i filmati su YouTube, immagino, no? Non tutta la partita. La partita. La partita, guarda, Rai Sport l'ha trasmessa circa 56 volte nell'ultimo anno. Quindi, forse il secondo tempo e basta. Quindi, io l'ho rivisto. Comunque, allora, il rigore probabilmente c'era. Era fallo di Celestini sulla linea, sulla linea di porta. Beh, probabilmente. Però, probabilmente c'era anche un rigore per il Catanzaro quel giorno. Andiamo piantanini a guardare subito il filmato. C'era un rigore per il Catanzaro. C'era il dubbio, ci poteva essere, e quindi solo quello. Sì, no, per ristabilire la verità storica, questa mi mancava. Leverei l'avverbio sul rigore della Juventus. Non esiste un rigore più solare di quello con il difensore che para, ma con le mani proprio sulla linea di porta. Col braccio quindi, sulla linea, ma braccio, era da un metro. Da un metro, e insomma, il fatto è questo: sul rigore per il Catanzaro bisogna effettivamente indagare. Senti, ma per caso c'eri anche l'anno prima, il gol di Turone, testimone oculare? No. Io ho molte simpatie per la Lazio, quindi sicuramente era valido. Sicuramente era valido il gol di Turone, certo. E certo, è così, ci godo ancora di più se l'hanno annullato. È chiaro, come, ma poi senza quell'episodio non avremmo avuto tutta la meravigliosa querella tra Boniperti e Dino Viola sul ti regalo un metro, un centimetro. Che è stata una cosa che ci ha tenuto. Ci ha tenuto vivi per diverso tempo, lo fa ancora adesso. Comunque, se è vero che Berzotto ha organizzato tutto, ha fatto benissimo. Abbiamo vinto il mondiale. È chiaro. Ma l'ho pensato anch'io, infatti ha fatto strabene nell'organizzare tutto questo, evitare lo spareggio e far felici gli juventini. Sì, poi organizzata bene, ma perfetto. Senti, ma Pierluigi, ma perché Allegri torna alla difesa a 3 questa sera invece, tornando alla quella che insomma che è una non noiosissima cronaca? No, beh, invece questo mi piace di più, forse perché non ha lì. No, scherzare anch'io. Potremmo dire perché ha l'Ixainer, perché poteva mettere Padoina a destra e tenere Vrà a sinistra, però insomma non ha molte alternative. Mi sembra una scelta più legata all'emergenza e alla contingenza che una scelta ideologica. L'ha spiegato dopo l'ultima partita, dopo il derby contro il Torino. I due moduli vanno avanti di pari passo. È chiaro che la sua filosofia è più da 4 che da 3, però in determinate circostanze questo tipo di gioco può essere quello per gestire meglio l'emergenza, insomma. E se la guardiamo, ha il vantaggio di un giocatore come Pereira che gli dà enorme utilità tattica e che può schierare eventualmente, probabilmente lo farà, come esterno di destra, e quindi questo può garantire probabilmente il miglior 11 possibile, al di là di quelle che stanno le scelte davanti. Però insomma, la difesa a 3 con Ogbonna, che comunque da garanzie, Bonucci e Chiellini, Evra nel suo ruolo di esterno tranquillo, alla fine porta solo l'adattamento di Pereira in un ruolo che lui può fare piuttosto tranquillamente. Sì, va detto, Giovanni, che la Juventus qualcosa sul mercato dovrà fare, perché Asamoah e Romulo fuori 3 mesi, se davvero vuole giocare stabilmente con la difesa 4, non ho dubbi sul fatto che voglia farlo, qualcosa dovrà muoversi sul mercato della Juventus. Sì, deve prendere certamente almeno un esterno. Poi c'è la questione di Rugani che la Juventus vorrebbe riportare a Torino. Da quello che mi hanno raccontato, l'Empoli ha del potere contrattuale su Rugani, ha del potere contrattuale nei confronti della Juventus, amerebbe non privarsi di un giocatore fondamentale per la salvezza, e quindi non sarà semplice. Mi hanno detto che la Juventus teme più che altro a giugno di perdere magari il ragazzo se dovesse arrivare l'interessamento di qualche altra big, e quindi per questo sta spingendo. Su stasera, Pier, credo che sia una di quelle serate snodo del campionato, cioè, noi questa sera sapremo quanti punti servono per vincere questo campionato, cioè se si vince a 85, a 95 o a 100. Allora, a 100 e a 95 forse la Roma non è competitiva. Se però la Juventus dovesse dirci questa sera che il campionato si vince intorno agli 85 punti, ecco che allora forse avremmo un campionato diverso. Aggiungendo però che il 20 ottobre dell'anno scorso, quando la Juventus perse 4-2 quella incredibile, meravigliosa partita di Firenze, quella fu il mattone dei 102 punti. Ma sì, ma infatti io non... 85 mi sembra una quota che con la velocità di punta che hanno Juve e Roma mi sembra poco ormai. Non credo che si arriverà ai 102 punti dell'anno scorso, credo che ci si attesterà fra i 90 e i 95 per vincere il campionato, con i numeri che ci sono adesso. Poi dipende molto anche dal finale, insomma, evidentemente, da quanto ci si possa ingarellare, se mi passate questo termine che usiamo noi giovani, perlomeno noi ex giovani, cioè quanto ci si possa mettere lì a cercare a tutti i costi il record, come ha fatto la Juve dell'anno scorso, forse togliendo anche qualche energia all'Europa League, ci rimarrà il dubbio. Però insomma, in generale, secondo me 85 punti sono pochi. È una partita importante, direi come tutte le partite nelle quali c'è un potenziale di rischio, e stasera il potenziale di rischio c'è, non ci sono dubbi, così come era interessante Roma-Inter, capire l'altra sera se la Roma sarebbe stata in grado di reagire subito al gol all'ultimo secondo di Pirlo. Insomma, sono partite insidiose, sono partite complesse, e quella di stasera è sicuramente una di quelle che può creare degli imbarazzi, anche perché oltre agli aspetti, diciamo, da derby e tradizionali, la Fiorentina mi sembra che abbia un po' riannodato il filo nelle ultime due partite, cui arriva in una condizione molto diversa rispetto a quella di un mese fa. Tanto io vi interrompo per dire che informa Piantaneda che ha visionato orrori filmati, c'era un rigore per il Catanzaro, gomitata di brio su Borghi, quindi il rigore per il Catanzaro c'era, ma Berzot organizzò tutto e quel rigore non venne concesso. D'altra parte, anche un ascoltatore che mi scrive, Antonino Lusardi: per dirla tutta, si parlava anche di un rigore per il Catanzaro per un fallo ai danni di Borghi. Esatto, il fallo era di Breu. Per curiosità, vada a vedere durante la fase bonipertiana quanti campionati la Juve vinse con 1/2 punti di vantaggio. Domanda l'ascoltatore. Controlleremo anche questo. Mi spiace, Lorenzo, oggi non parleremo dell'omicidio di Kennedy, non facciamo la moviola su Dallas, ma sui fatti di Catanzaro e di Cagliari torneremo. È giusto farlo. Tutti convocati. 14:30, si parte tra poco, inizia la sfida. Mi mancava solo 14:30, si parte tra poco. 14:30, antichi miti. 14:30, comincia tra poco, la gola è andata e questo non è un gioco. 800240024, Flavio, provincia di Catanzaro, so già di cosa vuole parlare, stia lì. Giorgio da Prato, anche lei, so che è un tifoso della Fiorentina. Giorgio da Prato, dobbiamo chiamare Ciccio Graziani. Liam Brady in Irlanda, sarà a Londra. Perché Liam Brady, tra l'altro, mi raccontò in un'intervista qualche anno fa che quel rigore lì, insomma, lui già sapeva che sarebbe andato via. Fine stagione, no? Però insomma fu il suo atto d'addio, e quindi da un lato si sente orgoglioso perché comunque fu una partita nella quale mostrò professionalità, eccetera eccetera, dall'altra insomma questo ricordo agrodolce, anche se poi è stato benissimo nelle sue esperienze successive italiane con l'Inter e Samp, però insomma già sapeva che stava finendo tutto, e però sì. Poi arrivarono Platini e Boni, freddissimo. Grande classico, quella pennellata mancina, quel sinistro meraviglioso. Che grande uomo Liam Brady, che grande giocatore. Grande giocatore. Anche all'Arsenal, finale di Coppa Inghilterra nel 1979. What are we talking about? Dai. Sì, e poi soprattutto ti ricordi, la Juventus si innamorò di Liam Brady quando con la maglia dell'Arsenal la fece fuori dalla Coppa. Certo. In un doppio confronto Arsenal-Juventus, portava i capelli lunghi il numero 7. Benedetto Ferrara nel 1982 aveva 19 anni. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, come state? Molto bene, tu? Benissimo. 1982, senti, avevi 19 anni. Infatti, Benedetto, scusa, adesso parliamo di tutto il resto. Io non ho mai capito se tu eri dalla parte di Gobbi o di Pasquale. Non dei Gobbi. Però Gobbi, Gobbi ha segnato la Juve, una cosa del giorno della no. storica vittoria dopo 20 anni, capisci che... Come no, come intanto no. Intanto mi sto per rivedere Arsenal United 3-2 del 79, arrivederci, dica. Sì. Scherzo, cioè sto qui, sto con voi, l'ho messa su internet, però... Cosa? Ecco. Cosa hai messo? Insomma ragazzi... Ho messo Arsenal United del 79, la finale vinta 3-2, Arsenal avanti 2-0, pareggio 2-2 con la 90esima, what are we talking about, dica... No, dimmi Benedetto, stavamo parlando del 1982 che sembra ieri, no? Quando nacque questa rivalità pazzesca tra... Il rigore per la Juventus c'era, il fallo di Bertoni pure... Quindi, ma ragazzi, io che posso dirvi? Quella fu una giornata maledetta, fu una giornata in cui, come dire, dovevano queste due squadre in realtà giocarsi, andare a pari punti quella giornata lì, invece non fu così. Per una serie di episodi che non stiamo qui, avete già ricordati. No, ma poi soprattutto perché Berzot pilotò il finale di campionato in quella maniera perché non voleva lo spareggio, perché doveva preparare la squadra per il mondiale. non si voleva, insomma, comunque gli episodi sono tanti nella storia, è inutile stare qui a ricordarli per dire che ci fu quello scudetto per noi considerato scippato, rubato, poi ci fu, vi ricordate, insomma, la vicenda di Baggio, che comunque non aiutò, come dire, a rasserenare gli animi. Era acquistato quella doppia finale, quella e quello cioè, Avellino, una finale Avellino, quindi nemmeno la gioia di poter vedere in casa la Fiorentina, insomma, fu o comunque a Perugia perché c'erano i lavori per i mondiali, insomma, fu qualcosa di abbastanza forte e drammatico per la città, anche perché insomma, l'assessore di Baggio, vi ricordate, insomma, gli incidenti e tutto quello che accade. È ovvio che è una rivalità sportiva che va avanti da decenni, è ovvio che Firenze sente questa partita, ha vissuto, ricordiamo, uno 0-5 casalingo che lasciò tutti senza parole, che però fu il momento in cui si decide di cambiare tutto, perché da allora, voglio dire, si decide di cambiare strada tecnicamente, poi di arrivare a Montella, e tutti si chiedevano, ma uno 0-5 in casa, com'è possibile in qualche modo... come dire, vendicarlo con un 4-2 come quello dell'anno scorso, col cinema, il grande spettacolo, il Cranchi l'anno scorso, in cui accadde quello che nessuno immaginava potesse accadere, quindi il cuore, come dire, si è riscaldato ed è stato una qualcosa di assolutamente bello per i fiorentini e credo anche, insomma, per tutti quelli che non sono juventini, perché certe storie sono belle per tutti. Certamente. Per il calcio in assoluto. Certamente, ma che sensazione hai su questa Fiorentina? Perché io e Pardo qualche volta abbiamo detto, la sensazione è che ci sia una certa stanchezza nel progetto Montella, almeno sul fronte interno, cioè che questo progetto si stia lentamente e quasi in maniera fisiologica arrivando alla conclusione. Tu hai questa sensazione o no? Ma questa è una squadra che ha incrociato un momento delicatissimo. Il terzo anno di un ciclo è quello più difficile, perché dei giocatori sono invecchiati, anche se sono sempre forti. Comunque la Fiorentina non era più una sorpresa, il primo anno fu una sorpresa, un calcio meraviglioso, no? Il secondo anno è stata una conferma, insomma il terzo anno poi alla fine o alzi l'asticella o diventa un po' più difficile tenere anche alte le motivazioni. Non a caso la Fiorentina ha sofferto in campionato, ma in Coppa, al di là degli avversari, però ha sempre fatto molto molto bene, quindi in Europa. Detto questo, va detto che sul fronte degli acquisti, insomma, la permanenza di Cuadrado, che ha legato le operazioni, no, fino a quasi gli ultimi giorni, la cessione, il giocatore è stato confermato, ma questo è stato buono ovviamente per la Fiorentina e per Montella, però insomma ha creato qualche problema, perché ha rallentato un po'. Allora diciamo comunque una cosa, questa è una squadra che ha avuto un avvio di campionato più complicato e ci poteva benissimo stare, però è una squadra che si sta riprendendo e affronta la Juventus comunque in un momento buono, sia morale, 3 vittorie di fila in trasferta in una settimana, tra 2 di campionato e di Coppa, e poi anche se non c'è Rossi, l'eroe dell'anno scorso, c'è però c'è Gomez, che lo sblocca Gomez, come dire, è stato varato in tempo della Juventus, perché è tornato a segnare dopo 8 mesi, questo sicuramente fa ben sperare. Realistica la visione, Pardo? Sì, sì, ma io infatti non ti volevo correggere, non volevo fare il faccentello che era... Io non sono del tutto d'accordo, io penso che sia sbagliato anche a Firenze ogni tanto degli amici delle radio che pensare al terzo posto, c'è ancora chi ci pensa e forse con questa classifica in qualche modo è ancora pensabile. Io credo che la Fiorentina, con tutte le vicissitudini che ha avuto, deve pensare a far molto bene in Europa League, quella di adesso, e ha come obiettivo plausibile la conquista di una nuova Europa League l'anno prossimo. Di più onestamente sarei sorpreso. Credo che Montella sia un grande allenatore, sicuramente a questa società è successo di tutto, perché è una squadra che negli ultimi due anni, o meglio negli ultimi 15 mesi. Scusami Pier, però se si dice terzo posto per l'Inter, che di punti ne ha 17, perché no per la Fiorentina che ne ha 19? Ma sì, ma infatti, però soltanto uno su mille ce la fai, cioè lì il concetto è che possono in questo momento, se guardiamo la classifica, aspirare al terzo posto 10 squadre: Napoli, Genoa, Samp, Milan, Lazio, Fiorentina, Udinese, Sassuolo, Inter e Palermo. Io sarei sorpreso se non fosse il Napoli, perché secondo me il Napoli è quella che ha i valori di punta più alti di queste 10. Vorrei dire, scusami sì. Se io sposo questa tesi, nel senso che la Fiorentina con Gomez e Rossi, cioè quella che abbiamo quasi mai visto, certo, era un'altra cosa. Allora, certo. Su questo non c'è dubbio, ma c'è anche un altro discorso, secondo me, al di là del fatto che il terzo posto non è impossibile, però non ne va affatto un mantra, nel senso che questa non è, senza Gomez e Rossi insieme, è una squadra che farebbe un'impresa arrivare terza, anche perché quando c'era arrivata due anni fa, poi alla fine sappiamo com'è andata, no? Però io devo dire una cosa: i giocatori vanno in campo e vogliono anche vincere qualcosa. Da questo punto di vista sono convinto che sulle motivazioni in Europa la Fiorentina, giocatori come Pizarro, Borcavalero, certo, Aquilani, giocatori che da tre anni lavorano in questo progetto, è vero che il terzo posto è importante perché si va in Champions, la visibilità, i soldi e tutto quanto, ma è anche vero che l'idea di arrivare a vincere qualcosa è qualcosa di profondamente diverso. Alzare una coppa, vorrei ricordare della drammatica, purtroppo, notte di Coppa Italia, non passerà certo alla storia purtroppo per fatti di cronaca drammatici, che in qualche modo comunque ha segnato anche una partita che non aveva poi, come dire, quasi un senso. E questi sono giocatori che hanno voglia di vincere qualcosa, quindi io sono convinto che la squadra ha vissuto un momento di difficoltà emotiva e di identità, ma adesso piano piano la sta ritrovando. Quindi parlare di terzo posto non ha senso, perché darlo un obiettivo comunque primario non ha senso, però non escluderei che questa squadra possa tornare a sorprendere. Assolutamente, sì. E mi sembra una squadra più da un po' come il Napoli, più da Europa che da fronte italiano, più da grande partita, da grande notte, puoi dirlo oggi, capisco che possa avere anche un significato particolare visto che stanotte sarà una grande partita, più questo che una squadra che trova la sua continuità. In Europa, non a caso, anche nei momenti di difficoltà che c'erano in campionato in questa prima parte della stagione, ha avuto un passo diverso, proprio perché è una squadra piena, come diceva Benedetto, di gente di personalità, di gente che gioca a pallone in un certo modo, che ha esperienza, a cui piace sentire un certo tipo di adrenalina, e magari è una squadra un po' meno da prestazione quotidiana, partita dopo partita. Quindi continuità. Io penso che poi, sai, in Europa ci vuole anche fortuna. C'è un secondo capitolo della storia, della saga tra Fiorentina e Juve dell'anno scorso, che è stata l'Europa League, dove la Fiorentina ha fatto una grande partita a Torino, poi ha perso il ritorno sulla di Pirlo, ma anche lì, insomma, la Fiorentina non è stata fortunata, perché sicuramente beccare la Juve, mi pare a livello di ottavi di finale, sicuramente non è stato il sorteggio più fortunato del mondo. La sensazione è che anche lì un po' di strada in più la poteva fare, quindi mi sembra che la dimensione europea quest'anno sia più che mai interessante. Grazie Pier, grazie Benedetto Ferrara. Ciao a voi. Noi salutiamo Pardo e ringraziamo Benedetto Ferrara. Giovanni, andiamo avanti. Dopo il traffico, Flavio, provincia di Catanzaro, Giorgio da Prato, vi ringrazio moltissimo, siete collegati con noi, non andatevene, state lì, 800 24 00 24, che naturalmente vogliamo tornare sul tema del giorno, sulla stretta attualità, e cioè 1982, il doppio confronto a distanza tra Juventus e Fiorentina, che causa arbitri corrotti e causa il potere oscuro manovrato e maneggiato da Enzo Berzotto non portò, Il sistema, mi suggeriscono dalla regia, il sistema, naturalmente, caso questo sistema corrotto, non portò a quello che doveva essere lo spareggio per lo scudetto tra Juventus e Fiorentina. Salutiamo anche Ezio da Roma. Ezio da Roma, un saluto, grazie per i messaggi. Io chiamo da Trani, provincia di Bari. Provincia di Bari. Trani, provincia di Bari. Tutti convocati. Mister? Sì. Sono Caca, Stefano. Certo. No, ti volevo dire che domani non potevo venire all'allenamento. Non potevo venire dove? All'allenamento. Ma che cazzo stai dicendo, non può venire? Perché non può venire all'allenamento? Perché mio fratello si sposa e quindi devo andare da lui. Ma si sposa un cazzo, che cazzo ti sta dicendo? Si sposa domani, che cazzo ti sei detto? Domani alle 3 deve stare, alle 2 sta all'allenamento, se no faccio culo grosso come una casa, Che cazzo c'hai in testa? Ma mister, ma è stato un inconveniente all'ultimo, Non ma è inconveniente che... un cazzo, non me ne frega un cazzo. Fare inconveniente, fammi sposare un altro giorno. Cazzo lo sposi martedì, chi cazzo si sposa di martedì? Si sposa di sabato. Ma quello è ricoglionito, si sposa martedì, che colpa mia. Che cazzo ridi? Non scherzare con me, già sono incazzato ieri nella partita. Ma fai ancora incazzato pure. Fermo, fermo, era solo uno scherzo. No. Sì, ma mister mi hanno messo in mezzo però, non è colpa mia. No, domani ti metto io in mezzo, non ti so. Dai, questo voglio risentirlo quasi tutti i giorni. Scherzo telefonico ordito dalla Gazzetta dello Sport. Okaka Mihajlovic. La valutazione di Okaka si è appena impennata. Sì, certamente. Flavio, grazie, buongiorno. Poi ha scelto l'allenatore giusto. Sì, ha scelto quello giusto per scherzare. Flavio, buongiorno. Buongiorno, sono Flavio da Catanzaro. Sì, buongiorno, grazie dell'attesa. Grazie per averci aspettato. Grazie a voi di avervi richiamato. E volevo solo aggiungere riguardo un particolare su rigore legato al Catanzaro. Sì. Visto che durante la mia testa siete riusciti a capire che in effetti rigore c'è il favore del Catanzaro. Volevo aggiungere un particolare di non poco conto, perché l'arbitro si trovava a 2 metri. Cioè da quell'episodio gomitata di brio su Borghi, giusto? Un Borghi, un calcione, una gomitata, perché io mi trovo proprio dietro la porta, ero posizionato sulla dietro la porta della curva ovest, abbiamo proprio sentito il rumore delle ossa della caviglia, guardi, qualcosa di spaventoso, non so come si è rialzato quel povero Borghi. L'arbitro a 2 metri ha lasciato correre, qualcosa di... Ma fu l'unico episodio dubbio oppure ci fu dell'altro? No, solo questo, cioè, ci poi fu questo resto... qui che era un rigore. Il rigore c'era in favore della Juve pure, ma sì, beh, quello l'ho rivisto e quindi posso dire che quello a favore del Catanzaro lo andrò a vedere subito dopo il programma, perché voglio avere un quadro esatto di quello che è successo quel giorno. Flavio, io la ringrazio molto, grazie davvero. Sarebbe stato espulso con conseguenza anche per denuncia alla Procura della Repubblica. Cioè, il classico fallo da codice penale, lei dice. Il classico fallo da codice penale. Chi è che l'aveva fatto? L'aveva fatto Brio su Borghi. Possiamo anche provare a chiamarlo, se è ancora a piede libero. Brio. E non lo so se poi la giustizia ha fatto il suo corso oppure no. La ringrazio, Flavio. Passo a Giorgio da Prato. Proviamo, Franco Piantanida, cercami quell'episodio, per favore. Giorgio, ciao, buongiorno. Ragazzi. Ciao. Ciao, dimmi. Ciao. Divorato dalla tensione in attesa di andare allo stadio, sì. E la tensione la stempero volentieri raccontandovi un paio di aneddoti. No? Il primo, io ancora in garage, un vecchio motorino Peugeot di quell'epoca, allora ero ragazzo, per mia fortuna allora ero ragazzo. Ma stiamo parlando del 90 o dell'82? 82. Ah, 82, sì. Con l'adesivo che allora c'era in quasi tutte le macchine di Firenze, meglio secondi che ladri, no? certo, ecco, sì. Quell'adesivo, la cosa bellina però è che quell'adesivo ebbe per noi tutti legittimazione indiretta qualche anno dopo il Juventus Verona di Coppa dei Campioni di qualche anno dopo, giocato a porte chiuse, dove l'arbitro francese Wurz ne fece talmente tante ai giocatori del Verona, sì. E io lo so perché lo racconta sempre il mio amico Antonio Gennaro, che noi conosciamo, il più fiorentino, che i giocatori del Verona, tornando negli spogliatoi, sfasciarono tutto al punto che furono chiamati i carabinieri. Quando i carabinieri entrarono nello spogliatoio, c'era Spagnoli, disse la famosa frase: guarda, i ladri sono dall'altra parte. Con la testa fra le mani, quando vide i carabinieri con sguardo sconsolato: ragazzi, avete sbagliato spogliatoio. Avete sbagliato indirizzo. Andate dall'altra parte. No, questa è bellissima storia del calcio. Questa, sì, questa poi tra l'altro farà arrabbiare. Però Spagnoli non era facile. Ragazzi, no, però mi dovete spiegare perché Giorgio, ci provi lei, perché diciamo tutti, vabbè, la Juventus vince mille scudetti perché in Italia l'aiutano gli arbitri, mentre in Europa vince nulla perché lì gli arbitri non l'aiutano. E allora, o vale una o vale l'altra, com'è la storia? Perché in alcuni casi l'aiutano, in altri casi non l'aiutano, e la finale di Coppa UEFA del 90 contro la Fiorentina venne aiutata, e quella doppia sfida col Verona venne aiutata, in altri casi no. Perché? No, nella finale di Coppa UEFA dell'80 del 90, e in effetti ci furono degli episodi a loro favore, ma non c'era paragone fra quella Juventus e quella Fiorentina. La Juventus era nettamente più forte, ma in alcuni altri casi dove c'è stato testa a testa con altre squadre, la Roma, la Fiorentina, stiamo parlando del campionato, mentre diciamo in Europa la Juventus non vince una cippa perché non ha gli arbitri a suo favore, cosa che accade puntualmente in Italia. Adesso succede, nel 90 non successe, nel 90 la Juventus aveva vinto perché era obiettivamente più forte della Fiorentina. Però attenzione, era obiettivamente più forte la Fiorentina, però come mi insegna il mio amico Giovanni Capuano, prima abbiamo visto insieme, il gol del 2-1 della Juventus fu viziato da un chiaro fallo di Casiraghi che poi segnò una spinta su un difensore della Fiorentina. Pin. No, è appassionante, questa puntata è strepitosa. Giorgio è troppo moderato, neanche un dettaglio di un rigore, un fuorigioco. Poi la Fiorentina che venne, l'ha ricordato prima Benedetto Ferrara, venne spedita a giocare la partita di ritorno ad Avellino. E però lì era colpa dei tifosi della Fiorentina che avevano menato il portiere del Werder Brema in semifinale. Poi ci fu la polemica perché loro dicevano che si doveva andare a giocare non in un feudo juventino come Avellino, dove c'erano 30.000 tifosi della Juventus che praticamente giocò quella finale con due partite in casa. Abbiamo un'altra ora, vero, per parlarne? Sì, abbiamo purtroppo solo una, ma per fortuna aspettiamo anche un grande amico, un grande ospite che verrà a trovarci tra poco, sta arrivando, col quale parleremo del canestro di Livorno. Del canestro di Livorno, è chiaro, il famoso canestro di Livorno, quello di Forti, che ancora oggi è la che balla, insomma. Era canestro, era scaduto il tempo. Chi lo sa. A dopo. Quote e pronostici. Anticipo di Serie A da urlo all'Artemio Franchi. Questa sera si gioca Fiorentina-Juventus con calcio d'inizio alle ore 20.45. Vediamo assieme le quote sniper. Questa partita, l'1, la vittoria dei Viola, è quotata a 3.50, l'X è a 3.30. Il 2 invece, con la vittoria dei Bianconeri, che sono favoriti, è quotato 2.10. Gol quotato 1.78, no gol quotato 1.92. Domani alle 18 in campo Roma e Sassuolo all'Olimpico. L'1, la vittoria dei giallorossi, è quotata 1.33, l'X è a 5. Il 2 invece, con il successo dei neroverdi, è quotato 9.50. L'altro anticipo di domani sera alle 20.45 è il match dell'Olimpico di Torino tra Torino e Palermo. L'1, la vittoria del Toro, è quotata 1.90, l'X è a 3.30. Il 2 invece, con il successo rosanero, è quotato 4.25. Questa sera Frosinone Ternana alle 20.30 apre il turno di Serie B. L'1, la vittoria della Frosinone, è quotata 1.85, l'X è a 3.20, il 2 invece, con la vittoria della Ternana, è quotato 4.75. Questa era l'ultima delle quote sniper di oggi. Noi ci risentiamo domenica. Tutti convocati. Everybody could be, feel, just happy, not only happily simple, that I think that is very important. And one more thing, I dramatically love you. Good job, guys. Ma non cambia nulla, perché Siena espugna il Mediolanum Forum di Assago, ora in vantaggio per la prima volta dall'inizio della serie, 3-2 tra 48 ore, può diventare campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva. Una storia meravigliosa, questa serie finale della Mensana, le difficoltà al tiro di gara 1 e gara 2, la crescita tecnico-tattica e la crescita di consapevolezza in gara 3 e gara 4 e l'impresa di questa sera. Non era facile venire a vincere qui in gara 5, Siena l'ha fatta, la Mensana non muore mai. E i 18 di altra parte, Josh Carter, 19 punti per lui, per Siena anche i 22 di Ains e i 18 di Hunter. Jennings, palla in mano, blocca destra a sinistra di Hunter. L'uscita di Melli, pallone ora gestito da Marchi Sainz, e aggressiva la difesa di Milano con il quasi recupero di Niccolò Melli. Palla fuori per Jennings, Matt Jennings, la palla che danza sul ferro, poi il pallone recuperato da Melli, e ora è Milano che avrà l'ultimo tiro della partita. Gerrard contro Hayes, i fischi della palaestra, Gerrard, Curtis Gerrard, si va a gara 7, la prudenza di... After this season, my life, not as a coach, as a person, will be different. I don't know if I will coach one more team, but because I think that this season, as a human being, as a coach, is the dream. Allora, ci sono i testimoni oculari, uno è Giovanni Capuano e l'altro ve lo presento tra un attimo. Nel risentire questo filmato sonoro, a me è venuta la pelle d'oca. Chiedo conferma al protagonista, Marco Crespi. Ho la pelle d'oca o no? Tu hai la pelle d'oca e io lo ammetto, ho le lacrime. Marco Crespi qui con noi, lo ringrazio del regalo che ci ha fatto, è un mio amico, e mi onora della sua amicizia, è un grande allenatore di basket, per distacco il migliore dell'ultima stagione sportiva, perché è arrivato ad un tiro, come avete sentito, da un risultato surreale, cioè quello di uno scudetto con una squadra, Siena, che era clinicamente morta, era in attesa dell'esecuzione, come un condannato a morte, è arrivato ad un tiro in gara 7 dallo scudetto. Ora questo risultato sportivo straordinario è diventato un libro che si intitola come un hashtag, come una scritta su una t-shirt, ma questo Something Different voglio che lo ricordi tu, Marco, da cosa deriva. Mi piace sempre etichettare le stagioni con uno slogan, lo faccio da quando allenavo e ci siamo conosciuti forse indirettamente le giovanili di Milano, e la scorsa stagione lo slogan era l'hashtag Something Different, perché pensavo e volevo creare la voglia di essere differenti in una stagione che sapevo differente, magari senza neanche immaginare tutto quello che è successo. Ed è stata la maglietta che ho dato non solo ai giocatori, ma allo staff, a tutte le persone che lavoravano negli uffici a inizio della stagione, una maglietta grigia con una scritta verde. Poi siamo arrivati alla finale e per come siamo arrivati è diventata la maglietta verde e poi bianca, perché erano finite quelle verdi che indossava tutta la gente nel nostro palazzo. Uno scudetto sul campo a Siena, poi appunto questo altro che è il risultato vero raggiunto, non sta sull'albo d'oro, ma è stata una storia di sport che va oltre i recinti dell'almanacco, dell'albo d'oro, eccetera. Dico di sì, senza nessuna superbia, però con grande orgoglio, perché penso che ci sia stato un gruppo di persone in una città come Siena, in un pubblico come Siena che veniva da 7 scudetti consecutivi, una città come Siena che è orgogliosa e chiusa nella sua storia, ma che giornata dopo giornata ha riconosciuto quel gruppo di persone che faceva qualcosa con grande passione, e quando a Siena sanno riconoscere la passione ti donano tutta la loro passione. Senti Marco, Giovanni, se vuoi intervenire fallo pure. Fermo all'immagine del sogno che abbiamo risentito, sì, evocata questa stagione, il sogno, e credo che lo sia comunque, sia andata a finire anche queste grandi storie, anche se finiscono male, nel senso che poi l'ultimo tiro lo mette Gerrels, l'ultimo colpo di testa al 93esimo, Simeone si vede scappar via alla Champions League, sono però storie meravigliose, perché è lo sport, cioè è l'essenza. Io penso che il sogno, la stagione differente non sono legate all'ultimo tiro che entra e esce, tante volte il risultato finale è un dolce o amaro inganno, e quindi il sogno rimane indipendentemente che quel tiro di Jenny che abbiamo sentito in telecronaca è uscito. Marco, visto che sono tuo amico posso dirti anche cose scomode, lo sai, fammi partire, poi continuiamo, parliamo del libro, parliamo di questa stagione, di questo miracolo, perché voglio entrare nei dettagli, visto che abbiamo il piacere di averti qui con noi, anzi 800240024 se volete intervenire anche voi. Questa stagione è stata molto crespiana, se me lo consenti. Sei emigrato, sei andato in una società di grandi tradizioni, non è funzionata questa avventura a Baskonia, ex Tau Vittoria, che ha, non dimentichiamo, tanti allenatori passati in pochissimo tempo e grandi allenatori, Ivano Iscariolo eccetera, tutti finiti in quella che potrebbe, che forse è una trappola. Dico soltanto questo, quando ho firmato con Baskonia ero felice perché pensavo, io lavoratore in una club dove si sa riconoscere e si conosce la cultura del lavoro. Adesso dico soltanto che al 30 giugno ho sbagliato completamente la mia scelta. Spesso si dice, tornando a quello che è successo l'anno scorso, spesso sentiamo dire da tanti allenatori c'è bisogno di, io voglio sposare un progetto, voglio sposare un piano, ho bisogno di un piano triennale. Si dice che un allenatore con un solo anno di contratto non possa lavorare tranquillo, eccetera eccetera. Nel calcio tutti ci dicono la stessa cosa, ma come, Conte allena la Juventus senza aver rinnovato il contratto a solo un anno eccetera, tu sei arrivato a un tiro dallo scudetto con una società che non esisteva più, come hai fatto? È una bellissima domanda, perché ho sempre pensato che fare l'allenatore è essere un motore tecnico e non la persona che sbaglia i cambi nella partita successiva. Però a Siena è successo che a gennaio sapevamo che non esistevamo più, e anche quando ho accettato l'incarico di capo allenatore a giugno quasi tutti sapevamo che al 99% era l'ultima stagione. Eppure è nata una stagione che per i contenuti anche tecnici è stata meravigliosa. Credo che oggi, per essere guida di un gruppo di professionisti in un modo contemporaneo, la parola progetto, programma è qualche volta non si abbina, e penso che si deve saper comunicare, trasmettere e identificare degli obiettivi veramente vicini, ma veramente vicini, che non sono il vincere la prossima partita, ma il come prepararsi a migliorare e a vincere la prossima partita. Questo si può fare anche, l'ho scoperto poi, anche in tempi brevissimi. Quindi ci marciano un po' su gli allenatori quando ragionano di progetti a lunghissimo termine, a lungo termine, e li pongono come condizioni. Questo vale nel basket, nel calcio, vale un po' nello ovunque, sport. Nello sport in genere. Io penso che per costruire qualche cosa ci vogliono degli anni. La situazione di Siena non può essere l'esempio, penso che sia più l'eccezione, e rispondo così: quanto mi sarebbe piaciuto che la Siena, quel gruppo di persone, avesse potuto giocare anche quest'anno nel campionato italiano, e essendosi qualificata anche in Eurolega. Quindi voglio dire, è stato qualcosa di eccezionale, però sarebbe stato bello che potesse diventare un progetto. Ma c'è stato un momento, un minuto in cui avete pensato che quell'1% di partenza poteva trasformarsi invece in qualcosa di concreto? Perché è contro natura abbandonare una squadra, una società che ci ha tenuto svegli fino a giugno. È un peccato anche per il sistema, è un peccato per tutti. E penso che l'argomento è ampio. Penso che Siena muore al di là di quello che è la sua situazione economica, delle sue colpe. Siena, penso che la morte di Siena debba essere un esempio per cercare di darsi regole serie e non regole piccole e dove tutti sanno poi come poterle aggirare. Beh, adesso Siena ha ripreso a giocare in Serie B. Molte società sono passate di lì, no? Da Pesaro a Bologna, alla Fortitudo stessa, che è ancora lì e ci è passato diverse volte. Poi se sono forti ritornano. Mi sembra che a Siena adesso ci vadano 3-4 mila persone a seguire la squadra. Hai visto mai che la ruota possa tornare, no? Sì, il giro possa tornare. Con Siena penso che ci possa essere un appuntamento al futuro, ma al di là di quello è importante che ci troveremo su quella panchina quando saremo vecchi in riva al mare, vedrai. Esatto, ma è importante che le piazze dove c'è passione rimangano. Sì. Poi bisogna chiedersi come mai anche piazze storiche devono ripartire quarta serie. Certo. Ma tornando al discorso di prima, come hai fatto tu a lavorare ogni giorno, a preparare ogni dettaglio di ogni partita, ma soprattutto, sai, anche per i giocatori. Per i giocatori non si parla tanto di contratto biennale, triennale. I giocatori li conosciamo, no money no play, difficile convincere, avere a che fare con gli americani, spesso quelli che vengono da noi, come faccio a prendergli il cuore a questo qua? non parlando di denaro, la situazione economica era particolare e il patto era che di denaro non si parlava. Sì. Io come allenatore, quindi come responsabile, come guida, sarei stato dopo patto con loro esigente al 101%, nessuno poteva tirarsi indietro, chi non voleva, chi pensava a un ritardo nei pagamenti se ne poteva andare, nessuno se n'è andato. Sono rimasti tutti lì? Tutti, e con gioia, e penso facendo la loro miglior stagione e arrivando questa stagione a firmare dei contratti. Appunto. Per il livello salariale, ma anche il livello di competizione che mai avevano raggiunto. Beh, questo fa onore ai giocatori, perché spesso li dipingiamo come egoisti, ignoranti, incapaci di programmare un futuro. Questa storia può anche insegnarci che qualche volta non è così. Sì, assolutamente. E poi tante volte si dice che gli americani sono mercenari. Avevo 8 giocatori americani e penso che siano 8 splendide persone, e cito solo la frase di Otello Hunter quando infortunato prima di gara 4, che era quella decisiva, vita o morte, sotto 2-1 a Reggio Emilia, giocavamo a Reggio Emilia, lui passeggiando prima quando doveva decidere se giocare o non giocare, titubante, se gioco oggi però passiamo, io mi faccio male, non gioco più in semifinale, lui mi ha detto no, voglio giocare, perché a Siena tutti i bambini sognano di indossare la maglietta Mensana, oggi può essere l'ultima partita della Mensana, io voglio giocare. Direi che dire americano mercenario mi sembra un po' un luogo comune, retorico e sbagliato. E poi non è semplice giocare sapendo che può essere sempre l'ultima, e per ultima, esatto, si intende, esatto, l'ultima nel vero senso, cioè non l'ultima e poi si va in vacanza e ci vediamo l'anno prossimo, ma la fine di una storia, perché voi avete giocato un mese con questo fantasma. Non è facile, ma se traduci il difficile in qualche cosa a livello emotivo è unico. Ma tu vai nello spogliatoio, cosa gli dici? Cioè, è un tema questo? Cioè, ragazzi, io voglio che ci sia un domani. Oppure è qualcosa che, come la questione dei soldi, viene messa lì in un cassetto, in un armadietto dello spogliatoio, si dimentica perché tanto è stata assimilata. La mia preoccupazione maggiore è dire cose scontate e retoriche in spogliatoio, lo odio, è la mia paura di allenatore. Dopo che abbiamo perso gara 1 contro Reggio Emilia, quasi vanificando la bellissima storia del secondo posto in stagione regolare, pensavo a cosa a dire in spogliatoio, non ho detto niente, ho scelto due immagini, due foto di Michael Jackson, prima giovane e bello e poi tutto rovinato dalla plastica, e ho scritto sotto come volete essere ricordati, e ho detto solo questo, e c'era Harry Green, il più giovane, sbalordito, che appena ho finito di parlare mi ha guardato che uscivo, ha preso l'iPhone e ha fatto la fotografia. Questo Something Different cosa c'è scritto? In Something Different c'è scritto, diciamo, il protagonista è la stagione passata, poi ci sono tanti pensieri non della mia carriera, della mia vita, perché il basket è la mia vita, e di come penso si possa interpretare in modo differente il basket, senza mai nascondersi dietro ma così fanno tutti, ma siamo abituati a fare così, e sempre essendo diretti e sempre senza recitare mai, e penso che quando si comunica verità si riceve verità. Io penso, invece, conoscendoti un po', che se dovessimo andare a fare un giro a Siena avremmo bisogno di una guida. Devo dire che... so benissimo che non la conosci. Cioè, non, ovviamente sto estremizzando, però sei andato lì, casa, bottega, bottega, casa, e per giocare a un ristorante buono dobbiamo farci aiutare. Sì, sicuramente se tu mi dici chiamo Riccardo Cagliani, l'efficiente team manager, scusa, c'è un mio amico che vuole mangiare, vuole andare a mangiare. No, vivevo 10 km fuori, casa Santa Colomba, palestra, casa Santa Colomba, palestra, con gioia. Dimmi qualcosa di Hackett adesso. Ieri, grande protagonista, è stata storia di cronaca, ne abbiamo parlato a lungo ieri pomeriggio. Hackett il ribelle, Hackett la testa di cavolo, ragazzo difficile. Allenatori non accettano questo ruolo. Conte dice: no, per Balotelli non ho tempo di educarlo, non è compito mio. Io credo che invece sia sempre compito di un allenatore, se vuole fare se vuole essere un grande allenatore, quello di utilizzare il talento, no? Tu hai avuto Hackett la prima metà l'anno precedente, prima. E poi la prima metà della scorsa stagione, poi è stato venduto a Milano per ragioni di bilancio. Era la stella di quella che era la tua squadra. Allora, è un giocatore da aspettare, da contestualizzare, da maneggiare con cura. Hackett è una persona e un giocatore vero e genuino. Chi è vero e genuino può sbagliare. Preferisco chi è vero e genuino a chi in modo politicamente corretto non sbaglia mai. Quindi ce lo aspettiamo di nuovo in nazionale? Cioè è la fine naturale di tutta questa vicenda? Se, io penso che non uno, sono problemi tuoi, eh. No, però io sempre dico quello che penso. Uno, in nazionale deve andare chi ha voglia di andare. Penso non ci debba essere l'obbligo di andare in nazionale, è anacronistico. Due, se Hackett vorrà e se Hackett rispetterà le regole, avremo il piacere di vederlo in nazionale. Tra l'altro tu hai lavorato con la nazionale, conosci bene quell'ambiente, non, è inutile nascondere le cose. A me piacciono gli allenatori che dicono: senti, parliamone io e te, vuoi venire? Dai il 101%, non vuoi venire? Un modo per stare a casa lo troviamo insieme, no? senza estremizzare le posizioni e andare ad uno scontro frontale. Nella vicenda Hackett a me sinceramente ha dato più fastidio quella lettera che i giocatori hanno scritto come gruppo contro un loro compagno, che non questa manfrina di un giocatore che probabilmente tanta voglia non ce l'aveva. Sono d'accordissimo e ti rispondo con un altro episodio. Pozzecco, prima degli europei del 99, io, Pozzecco, Tanjevic. Pozzecco comunica a Tanjevic: ma come mai gioco pochi minuti? Tanjevic gli risponde: se ti va bene così, se non è meglio che vai via. Pozzecco va via, poi tutti sanno che Pozzecco è stato escluso da Tanjevic, ma c'è stato un comune accordo: o tu sei uno dei tanti e ci stai, o se non ti piace meglio andare via. Quindi penso piace il Poz in panchina. Ha ragione Dan Peterson quando dice deve uscire subito in fretta dal personaggio, perché un allenatore si comporta in maniera diversa. Penso che comportarsi in modo molto formale in panchina, se lo dico io, è una cazzata. No, però c'è un limite. Non mi ricordo di averti visto mai incredibile Hulk. Dico soltanto che io conosco bene Poz, so che ama il basket. La scena che ha fatto da incredibile Hulk è non amare il basket. Lui però ha detto: non mi sono pentito, lo rifarei. Ovviamente frasi di circostanza, perché Pozzecco tornare indietro non ho mai visto. Non dico niente. Mauro, provincia di Alessandria, buongiorno. 80024 di non rispondere. 0024 si appella al quinto emendamento. Marco Crespi. Mauro, buongiorno. Buongiorno a tutti, Quaroni Mauro. Quaroni Mauro, buongiorno Quaroni Mauro, come stai? Bene Carlo, molto bene, grazie. Ti avevo promesso che sarei intervenuto prima o poi. Bravo. E quale miglior momento nel momento in cui c'eri Marco Crespi. Mio amico giocatore di basket. Mio ex giocatore. Tuo ex giocatore. Buongiorno Marco. Ciao Quaro. Tutto bene? Molto bene. Bene, mi sono permesso di intervenire proprio perché conosco i soggetti in questo momento lì in studio. E volevo spendere due parole a favore di Marco Crespi, al di là che ne ha abbastanza bisogno. Io nutro in lui e ci ho fatto qualcosa nella pallacanestro, quel poco che ho fatto comunque è merito sicuramente anche di Marco. E ultimamente si parla tanto e si sente parlare di Marco per la grande annata dello scorso anno e per questa frase something different, e mi viene da dire che mi ha allenato quando avevo 18 anni la prima volta, e penso che anche se non avesse mai coniato something different sia sempre lui il personaggio, nel senso che anche allora era sempre un allenatore che ci regalava una frase o comunque qualcosa ad effetto tra virgolette per stimolarci. Quindi penso che questa sia proprio la filosofia di Marco, e che sia uscita totalmente e finalmente per lui, e sono contento per lui, l'anno scorso a Siena. Detto questo, dimmi Marco. No, ti ringrazio e cito un episodio che mi ha fatto venire in mente. Quando allenavo le giovanili e quando allenavo anche Quaro, una volta raccolsi articoli, adesso sono un argomento d'attualità, non so quale poteva essere, diciamo come oggi diciamo lo scandalo della mafia romana, e avevo raccolto, fotocopiato gli articoli, dato ai miei giocatori della categoria juniores, quindi come adesso da Under 19, e ho detto: voi leggeteli e poi ne parliamo, perché dovete conoscere il mondo. Esatto. Un altro aneddoto, vi rubo veramente due minuti. Mi ricordo che andavo ancora a scuola alle superiori e dovevo affrontare un'interrogazione. Il giorno dopo mi ricordo che chiamai Marco e gli dissi: Marco, guarda, per oggi è un problema se non vengo a fare allenamento, che domani è un'interrogazione importante. E Marco mi rispose: Quaro, ma tu nella vita vuoi fare il giocatore di basket o lo studente? E io gli dici: giocatore di basket, allora le fai c'è allenamento. Ti è andata questo meglio che Okaka. Io te ti spacco testa. È veramente un grandissimo lavoratore e si merita Si merita tanto, si merita quello che ha raccolto l'anno scorso, perché gli scudetti vanno e vengono, esatto. No? Queste storie scrivi una volta sola. Certo. Benissimo. Grazie Mauro, ho la borsa, dimmi. Poi vi lascio andare, è anche vero che andate così, oltre ad avere un ottimo manico, bisogna avere anche la fortuna di avere 10 ragazzi che mettono veramente da parte il discorso economico, ma che hanno la voglia di giocare insieme per raggiungere un obiettivo e entrare nella storia in qualsiasi modo, ecco, quindi... Sicuramente non sono due cose che vanno separate, anzi devono essere assolutamente unite. Questioni d'amore. Chimica, quella esatto, cosa che chimica, si crea ogni team tanto. Chimica no. O amore, che poi forse è la stessa cosa. Esatto, senza no? Amore non si può creare chimica. Tutti convocati. Allora, torniamo insieme, 800240024, il vostro numero verde, ma soprattutto Marco Crespi, allenatore di Siena l'anno scorso. Facciamo presto a fare così, ma tanto lo conoscete tutti, sempre Giovanni Capuano qui con me. Stiamo parlando di Something Different, cioè il racconto di questa favola che ha scritto sul campo e che è stata trasposta su carta. Stiamo parlando di basket, di sport. Milano, quella che ti ha battuto In finale, era una squadra sovradimensionata l'anno scorso per lo stagno della nostra pallacanestro, lo è anche quest'anno, sempre per lo stagno della nostra pallacanestro. Mi sembra però che l'antagonista, che l'anno scorso era la Siena di Marco Crespi, quest'anno non ci sia. Rispetto all'anno scorso, Milano, quando la guardavo in televisione gennaio, febbraio, c'erano le top 16, noi non avevamo proseguito nei top 16 e vedevo loro dare 30 punti all'Olympiacos, competere, vincere in trasferta, e dicevo noi giochiamo un'altra pallacanestro, mai avrei pensato di poter arrivare a gara 7 con loro. Ma cosa voglio dire per rispondere a questa stagione? Ci sono penso tre squadre completamente differenti, Venezia, Reggio Emilia, Sassari, che possono fare bene, però penso che il campionato italiano sia per conoscere chi vincerà la medaglia d'argento. Milano non può non vincere il titolo, anche perché alla fine giocherà bene. Non è una bellissima cosa questo, considerato che a parte la parentesi dell'anno scorso con questa meravigliosa serie finale, in realtà noi passiamo dal dominio di Siena, entriamo nel ciclo di Milano che durerà fino a quando durerà. Però la verità è che, a parte la parentesi dell'anno scorso, una serie finale col batticuore, un campionato pensando chi può vincerlo, noi bisogna tornare quasi al secolo precedente. E penso che non mi piace rispondere con dei numeri o con delle possibilità di budget per firmare i giocatori, ma sicuramente oggi Milano ha dei numeri completamente diversi da altre squadre. È ovvio che poi i numeri non vanno in campo, ma Milano abbina anche un modo di allenarsi, un modo di giocare serio, che poi fa sì che quei numeri comportano differenze importanti. Questo aiuta o no un sistema a crescere, un sistema complessivo? No, cioè noi stiamo perdendo degli anni da questo punto di vista. Sicuramente non aiuta, cioè la forza dell'NBA è che con il salary cap, il metodo delle scelte, su 30 squadre nelle semifinali di conference sono arrivate negli ultimi, mi sembra, 7 anni 22 squadre. Questo significa equilibrio, significa che i tifosi di tutte le squadre possono sognare per qualche cosa. Sì, però rimane il discorso, è vero, nella pallacanestro come nel calcio, quelle che poi alla fine vogliono vincere l'Eurolega hanno un certo tipo di budget, è vero che non giocano gli estratti conto, ma inutile far finta che non sia così. Sappiamo benissimo che Real Madrid e Barcellona in Spagna, sappiamo che Panathinaikos e Olympiacos in Grecia, sappiamo che le turche, sappiamo che Zesca è un ex Kazan, che ho visto ieri sera, un organico spaventoso che chiama una quantità infinita di denaro, sappiamo che sono queste, cioè la sorpresa è impossibile. Quindi anche nel calcio no, ci sono squadre che sono sovradimensionate rispetto ai campionati di appartenenza. Penso che oggi anche nel calcio il Verona e il Cagliari non possono neanche sognare di vincere lo scudetto, certo. E invece 10-15 anni fa l'hanno vinto. Senti, ma tu dicevi prima, vedevi giocare a Milano in Eurolega, dare 30 punti al Barcellona, giocano un'altra pallacanestro, come hai fatto ad arrivare lì a giocartela? Cioè, da dove sei partito? Qual è stata l'idea che ti è venuta? Due pezzi. Il primo, sapevo che quel gruppo aveva dentro qualche cosa di motivazione vera e poteva migliorare, aveva delle qualità, e il fatto di giocare insieme poteva farci giocare in modo differente da altre squadre. Devo dire che, e cito un episodio, giochiamo l'ultima partita di stagione regolare contro Milano. Milano ci batte, Samardo Samuels fa 22 punti, 23 punti con 11 su 11, anche una tripla dal campo. A luna di notte Otello Hunter mi manda un messaggio e mi dice su WhatsApp, e mi dice: voglio vedere tutte le clip di Samardo Samuels. Ah, della partita di oggi? No, no, tutte, anche quelle di Eurolega. E pensavo, ma tanto noi non ci possiamo più giocare, inizia nei playoff, Milano non la incontreremo più. E devo dire che quindi il secondo pezzo l'hanno fatto i giocatori. Sinceramente, alla fine della stagione regolare ero così orgoglioso di quel secondo posto, ma neanche come pazzo sognatore pensavo di poter arrivare a un tiro dallo scudetto. Sì, poi i giocatori bisogna anche saperli scegliere, no? Perché non dipende solo dal contesto, dalle motivazioni, eccetera, eccetera. Però il sistema di reclutamento dei giocatori non è che si fa guardando due videocassette. Ah, assolutamente, per conoscere i giocatori, per scegliere un giocatore bisogna, uno, tante volte si sceglie un giocatore senza parlare con lui, per me è impossibile, cioè bisogna parlare e il più delle volte farlo di persona, non si può affidare, ci sono dirigenti in un'azienda che per un salario magari di 4.000 euro devono fare 5 interview, qua per salario di 1.000.000 si sceglie dalle statistiche, mi sembra assurdo, e oltre alla conoscenza personale, sapere la storia e pensare in modo analitico a come comporre la squadra, a quanti giocatori stanno a penetrare e soprattutto pensare a quanti giocatori stanno a tirare, che tipo di situazione di gioco vogliamo fare, come saranno questi giocatori in queste situazioni, non pensare dopo a che schemino fare scopiazzato da qualcun altro. E in più c'è l'attacco, c'è la difesa, sempre si costruiscono le squadre sommando i punti che hanno fatto i giocatori nelle stagioni passate, ma conta anche la difesa. Il famoso almanacco Panini, no? Quello che serve Manico anche Panini, per chi compra gli attaccanti, come dice Galliani, ad esempio Okaka due gol, lui è sandoriano, no? Okaka due gol è il miglior non bomber protagonista della Serie A, eppure lo compreranno a suon di milioni. Ma questa Milano che prospettiva ha in Europa? Perché l'abbiamo vista soffrire anche l'altra sera, comunque è arrivata all'ultimo tiro in una partita chiave in casa, non l'avesse vinta si sarebbe complicata il cammino, ha sulle spalle credo sempre il peso di dover dimostrare anche in Europa perché l'Italia non basta più come giardino, e però in Europa poi ci sono anche gli altri. Credo che Milano abbia, l'anno scorso non va dimenticato che due minuti sciagurati l'hanno tolto dal Final Four e eliminando la squadra che poi ha vinto, questo già è un fatto. Gara 1 col Maccabi. Seconda cosa, se faccio questo esempio, se si sceglie il talento di Brooks da abbinare al talento di Gentile, vuol dire che Milano, ok, Portaluppi, Luca Banchi, due amici, hanno fatto una scelta di avere pazienza, perché per abbinare il talento di due personalità tecniche così forti ci vuole pazienza. Giudicare Milano prima di febbraio penso sia sbagliato. Hanno qualche mese a disposizione, diciamo che il campionato giardino molto stretto li aiuta a poter costruire un po' più con serenità questo progetto. Hanno raggiunto l'unico risultato che dovevano raggiungere, a qualificarsi per le top 16, è raggiunto, quindi adesso continuare a lavorare senza più la pressione del risultato. Bello vedere il forum pieno, eh? Tu conosci molto bene Milano, sai che ha vissuto negli anni momenti di grande amore e poi momenti invece in cui la città aveva completamente dimenticato la pallacanestro. Io ho detto subito che per me il grande risultato dell'anno scorso di Milano, il primo grande risultato raggiunto, è stato riempire quel palazzetto. Quindi penso che avere per 7 partite di fila tutto esaurito sia aver vinto. Esatto, la penso allo stesso modo. Ma lo vuoi Balotelli alla Sampdoria? Sto leggendo di un possibile scambio Romero al Liverpool, allora, Balotelli alla Sampdoria. Allora, se Balotelli e Cassano ritornano a giocare, cioè uno ritorna a giocare nella Sampdoria, così io vado in pausa. No, non si può cambiare squadra, ma sicuramente con Balotelli e anche Cassano nella Sampdoria io non tifo più Sampdoria, anche perché mi ricordo che Cassano, facendo una tremenda cavolata quando c'erano le qualificazioni, quando ci qualificammo per la Champions League e stavamo vincendo 3-1 e quindi saremmo passati col Verde Brema, ok, fece una cavolata e anzi già festeggiava in panchina, adesso mi ricordo qualcosa che mi diede un fastidio pazzesco e si perse la possibilità di giocare la Champions League. Come? Arrivò al 3-2 che fu l'inizio della fine di quella Sampdoria. Okay. Conoscendo non sono giocatori che Crespi prenderebbe. Però mi chiedo, visto che parlavamo prima della chimica di spogliatoio, provando a mettersi tolti un attimo la tuta di Mihajlovic. Ti è venuto in mente di Ballotelli e Cassano per la Ballotelli chimica. Ballotelli e Cassano insieme. Siccome magari a Mihajlovic ci dicono Sinisa, ecco qua, Ballotelli e Cassano, a quel punto un tecnico, cioè come li gestisce? Cioè non può fare come da tifoso, che tu dici io mi dimetto da tifoso per 6 mesi, poi passeranno e tornerò a tifare Samp. Poi dopo tu li hai in spogliatoio e devi costruirla quella chimica. Io penso che alcune volte un allenatore deve fare delle scelte, e le scelte sono anche escludere, e quindi forse la scelta vincente potrebbe escludere entrambe. Tutti convocati. Allora, questo non è l'applauso di un parasport, ma di una sala in cui hai presentato il libro. Sì, Marco, è stato Crespi. Bello. Perché abbiamo presentato questo libro, dico abbiamo perché c'era Giuseppe Nigro e Massimo Basile, che sono stati bravissimi, hanno dato un ritmo, e soprattutto non è stata una presentazione di un libro, è stato il rivivere le emozioni di una stagione insieme a tutte le persone che erano dentro quella sala. Io voglio fare un altro discorso con te, perché io mi sono abbastanza stufato di sentir dire il ritornello in nazionale, devono, cioè nei club devono giocare i giovani giocatori italiani. Ad ogni fallimento euromondiale, in ogni sport sentiamo dire queste cose. E perché non giocano i giovani giocatori italiani? E perché non proteggiamo i vivai? Questo è il coro. Io sto orgogliosamente fuori dal coro e continuo a ripetere che al massimo livello professionistico possibile, cioè nel massimo campionato possibile, devono giocare quelli bravi. Tu come la pensi? Sono d'accordissimo, credo che non solo devono giocare quelli bravi senza distinzione d'età, ma anche quasi senza distinzione di passaporti. Mi spiego, siamo in Italia, il campionato italiano deve avere un'identità italiana, perché ovviamente è un prodotto da vendere in Italia, parlo del basket, e dico che su 12 giocatori fare una semplice regola, 6 giocatori stranieri e 6 giocatori italiani, significherebbe semplificare, abbassare i costi e mantenere, o meglio rafforzare, l'identità italiana. Certe volte fare delle cose semplici è sempre meglio che fare dei discorsi che alcune volte, come dici tu, quello dei giovani, è creare del fumo, così si usa un po' di demagogia e poi non si fa niente a livello di regole. Tu hai vissuto da tutte e due le parti della barricata, un po' come sto facendo Conte adesso. Io mi ricordo Pianigiani, che nella sua Siena aveva una squadra praticamente di stranieri, una volta fatto salto in nazionale, l'ho letto in diverse interviste, con questi moniti ai colleghi a dare spazio agli italiani. È così difficile riuscire per voi tecnici a essere coerenti quando passate da una parte all'altra della barricata? Io penso in questo di essere molto differente, ma non dico in positivo, dico in negativo, che sono zero politico, ok? E voglio dire, prima di Pianeggiani c'era Bianchini, che quando allenava Roma diceva il basket è per le metropoli, poi quando allenava Cantù il basket è per i piccoli centri. È un grande comunicatore, però alcune volte insomma essere un pochettino più stabili e coerenti, non a livello di singole persone che poi fanno il loro interesse, ma a livello del movimento, significherebbe avere idee. Ma dimmi anche un'altra cosa, tu hai cominciato dal settore giovanile qui a Milano e poi stai facendo la carriera che stai facendo, ma esiste una preclusione di un allenatore nei confronti dei giocatori italiani? Qual è il vizio capitale dei giocatori italiani? Perché non trovano spazio? Perché gli stranieri, come dice qualcuno, sono più esotici, o perché ci sono altre ragioni? Innanzitutto, quando si dice che devono giocare un numero elevato di giocatori italiani per proteggere la nazionale, credo che sia un falso. I giocatori che ruotano attorno alla nazionale, quanti possono essere? Facciamo 18. Sì. Se i 18 migliori, e ce ne sono addirittura 3 che giocano in NBA, quindi se i 15 migliori giocatori italiani non riescono a giocare minuti importanti, è la situazione grave, ma tutti i giocatori italiani migliori da sempre, da 15 anni a questa parte, giocano minuti significativi. Quindi aumentare la quota di italiani è un discorso o di identità o di sindacato, ma non di protezione nazionale. Ma esiste un difetto dei giocatori italiani, un peccato originale? Hanno meno voglia di lavorare, meno propensione al sacrificio, meno quello che vuoi? Io odio le generalizzazioni, come anche. Non ci sono i giocatori americani mercenari, i giocatori italiani col cuore, c'è il giocatore, la persona col cuore, con una cultura del lavoro, e la persona Ballotelli. Però il tema è aperto, perché si discute molto dei nostri giovani che fanno sport, qualunque disciplina, che ormai si sono imborghesiti, non si fa più sport per uscire dalla povertà, e questo fa perdere quella cattiveria, quella fame, non si gioca più a calcio, a basket, negli oratori, nei quartieri. Sì, penso bisogna essere contemporanei. La prima nota contemporanea è una nota positiva. No, secondo me è negativa, perché se si dice che non si gioca per la povertà, penso che la situazione economica di oggi sia tristissima. Io sono stato in un liceo a Siena per parlare di basket, non solo di questo libro, e ho detto, io quando avevo 14 anni in un tema al liceo ho scritto che sognavo di fare l'allenatore di pallacanestro. Voi dovete coltivare una passione, perché se non coltivate una passione che non vi porta ad avere una competenza o un sogno, siete senza speranza. Quindi, ritornando al tuo discorso, credo che adesso emergere nello sport professionistico per sfuggire, non diciamo alla povertà, la non occupazione, potrebbe veramente ritornare a essere una motivazione importante. Senti, poi tornando ai giocatori italiani, diciamo non ce ne sono, non abbiamo giocatori da mettere in nazionale. Io l'altro giorno facevo un discorso, credo con Luca Chiabotti, con qualche ospite che avevo da queste parti. Poi leggo il roster di Reggio Emilia, leggo quello di Cremona, vedo Fontecchio a Bologna, vedo nascere qua e là sprazzi di azzurro. A me la situazione, lasciando stare la punta dell'iceberg di quelli che giocano nell'NBA, a me non sembra che la situazione sia così disperata. Cioè, mi sembra che un ricambio generazionale in questo momento ci sia, e che la qualità, partendo da Gallinari, Gentile, in su, in giù, dove vuoi, ci sia. No, penso sia, sono totalmente d'accordo. Ci sono, sono contro il disfattismo. Non esiste. Ci sono giocatori che possono dare continuità al progetto azzurro, assolutamente. Ci sono giocatori che emergono anche di fianco agli stranieri. Credo che questo non sia assolutamente il problema, o forse è un po' di fumo per nascondere i reali problemi. Che sarebbero? I reali problemi: avere delle regole certe, avere un mondo della pallacanestro dove su 24 squadre Orlega parlavo con due agenti molto seri dicendo forse non ce ne sono 8 che pagano in on time, e questo penso sia anche un male che arriva dal calcio. E se vogliamo vendere, e siamo qua tutti a cercare di trasmettere emozioni alla gente che cerca di emozioni nello sport, penso che la certezza economica e non sapere di pagamenti in ritardo, di non pagamenti, potrebbe essere già il primo passo. Va bene, Marco Crespi, dobbiamo chiudere qui. Mi spiace molto che sei andato avanti a parlare per ore, ma lo farò, anche a microfoni spenti. Adesso non ti resta che scrivere un'altra storia sul campo e poi metterla sulla carta. È semplice, non è difficile, diciamo, la possiamo che, fare. Certo, per far questo ho messo 52 anni, quindi adesso vediamo. La seconda parte è la più complicata, cioè metterla la seconda su carta. Parte è la più complicata. Something different. Grazie a Marco Crespi, Giovanni Capuano qui con me, Franco Piantinelli il nostro autore, Fabio Cantadori in regia, Daniele Buonamici in redazione. Ho finito. Ciao a tutti. Ci vediamo domenica. Guardate, c'è palla da biliardo. Grazie di essere venuto. Non toccarmi. Non c'è problema. Allora, come ti chiami? Yul Brynner. Beh, lieto di averti nella squadra, Brynner. Chiariamo subito una cosa, Bennock. Potrò anche essere della vostra squadra, ma non mi considerate un compagno. Tu dici se vuoi correre sul mondo. Sta a sentire, bello. L'unica ragione per la quale sono venuto qui è che voglio andarmene da quest'isola schifosa. E se per farlo devo salire su quella specie di slitta, io ci sto. Tutti convocati.